Ma perché ho caduto? Ah, peccato. Io penso che canna a vino. C'era tutto caduto a vedi piazza. Quando muove a vedere. Catta, ne ho visto due o tre apparati di cose su Facebook. Ah, tutto in inglese scritto. Com'è che tutto in inglese? Io su Facebook ne ho visto uno che stavano vendendo ed era anche poco caro, non era caro per niente, dai. Ce n'era uno, 150 euro, Superstar. Ed era scritto in inglese, era in inglese, dice. Su PayPal, no, guarda, su Subito puoi guardare, oppure ci sono su Facebook, ci sono nei forum per i CB, vai lì, magari trovi qualcosa. E domani a guardarlo. Mi ha aggiustato il telefono che mi ritarda sempre di... Devi essere da consente, cazzo non me la sono in pagina. E l'altro giorno mi volevano fregare, me lo sai. Mi ha detto, signor, sì, mi dica. Allora devo praticamente dirle che lei non risulta più in energia. Potrei aiutare per rimettere tutto a posto. Ho detto sì, cosa si tratta? Lei mi ha detto praticamente la stiamo mettendo in medicina. No, no, lei non mette nulla in medicina, io sono l'energia e così rimango, non mi deve cambiare nulla. Ah, a Napoli ho preso, gli ho chiuso il telefono, beh, ma ci ha mandato altri due busti e non l'ha più ripuso, hai capito? Aspetto il telefono, io glielo aspetto. Quando c'ho mamma, ma vado l'appuntamento a Risetti. Allora Jimmy che mi intende. Siccome sono con l'energia, dice lei sta pagando 0,28 centesimi a kilowattora. Assicurare. Ah, dopo ha giubilato, ha chiamato a energia, ha chiamato al numero verde. Io dico andare a cagare a quelli lì, ma dite questa signora. Certo, vabbè, non sono come ti buttiti, no. Ma sono il coso protetto pure. 10 centesimi ora. E mi fate l'energia 10 centesimi. E cosa? Il switch mi ha fatto 4 centesimi, mi ha fatto. Fa i segunetti. Però sono dell'Ene che me li mette l'Ene e me l'ha messo. Abbasciamo. No, io non ho il palo in terra. Praticamente ho dovuto cambiare l'accredito in banca, eccetera, eccetera. E poi hanno fatto studio, mi hanno fatto pagare le bollette del vecchio gestore, che erano praticamente, loro dicono disinstallazione, eccetera, eccetera, sono 40 euro, poi altri 50 di una bolletta che mi era rimasta da pagare, l'ultima bolletta. Insomma, le bollette di Rauschi. Io con la banca gli avverto di chiudere il conto a questi qua, e no, infatti la banca me l'ha chiuso, questi mi hanno chiamato, dice ma guardi che lei c'ha, mi hanno mandato il bollettino e l'ha detrazzato. Dice io ma voi non devo pagare nulla, siete voi che vi siete intromessi, peggio per voi. Dice non posso pagare due bollette, una a voi e una a quelli là, da dove l'avete presa questa accusa? Dice guarda, noi abbiamo più avvocati di voi, mettete l'avvocato, quello che volete, però io non ve ne pago. Allora sbloccati una banca e non si sono fatte più niente, non si sono fatte. Ti ha giubilato e dice oh, aspetti, salgo direttamente dalla magistratura e poi vediamo se siete dei così. Oggi sono sul padre e non mi hanno più chiamato. E non bisogna mai rispondere sì quando ti fanno le domande, perché loro hanno il contratto in mano, la registrazione. Quando tu dici sì, loro mettono quello che vuoi, la registrazione, per giunta che tu dicono vuoi fare il contratto con noi, tu dici sì per un'altra cosa e loro ci mettono sì che hai detto e ti butti. Ma non me ne butti giù, perché tu vuoi fare quel contratto, io te ne faccio un altro sopra quel contratto lì e non riesci a entrare. Sono questi il servizio nazionale italiano, servizio nazionale italiano, e mi ha mandato tutta la pratica e coso, e io gli ho mandato dalla pratica loro che mi hanno mandato il foglio di coso, di chiudere tutto, che non volevo stare con loro, per forza loro mi hanno chiuso tutto. Fatto la PEC. E tramite me gli ho mandato il foglio che ho preso da loro, che me l'hanno consigliato un altro, me l'ha consigliato Mattesi di fare così, e li ho bloccati subito, li ho bloccati che non volevo stare con loro. E adesso non so, quando squilla Italia o le cose non rispondo neanche, ti lascio squillare. Perché sono delle rotture di palle. Ma dice che si possono togliere queste pubblicità, queste cose qua, queste chiamate strane. Sì, io gli ho messo, gli sto bloccando i numeri, li sto bloccando. Ma non entrano con numeri diversi. È vero, sempre ci bloccano, tutti i numeri che vanno te li blocco. Adesso sono furbi, non ti scrive manco spam quando chiamano, capito? Tu c'hai il dubbio, magari pensi che sia qualcuno che conosci, che non conosci il numero, e rispondi. E sono sempre loro. Con i numeri normali ti chiamano, non risulta manco che uno spam. L'altro giorno ero su in questura alla polizia perché c'era questo qua che aveva mandato il messaggio, gliel'ho fatto vedere se l'hanno preso il messaggio, aveva chiesto denuncia, vuole fare soldi, gli hanno preso, no, non mi hanno fatto nulla perché non l'ho aperto io, e ci hanno preso il coso, ci hanno preso per la polizia postale direttamente. E gli ha detto di questo del consenter che non ci possono far nulla loro, sono autorizzati, sono sì, ma sono invadenti parecchio, allora mi ha chiesto il telefono, aspetti, c'è un modo per toglierli, e me l'ha fatto vedere, quando ci arrivi da casa non me ne metto più. Te lo devi far scrivere. L'ho spiegato anche su internet una volta, ma poi mi è sfuggito perché sono trovato un'altra cosa, mi sono dimenticato di questo che abbiamo detto, perché i passaggi non sono pochi. L'unica cosa che quelli di energia da su all'Enel mi hanno detto, dice, quando chiamano non rispondo neanche, mi lascio perdere. Ce ne sono tante cose che cercano di bugie, tanto per attirarselo. E così si offendi. La manita, casa la manita, guardi, c'è il switch, non l'hanno attivato, quello e quell'altro, lì è una categoria protetta, senti, 10 centesimi, a quando lei ne muoverebbe a 10 centesimi in un mattino. Ci caschi poi. Ha detto, beh, avanti blocco io. Se rompo il telefono, vedete che non mi chiamano più. Poi ha detto, ma lì è con l'energia. Ha detto, sì, ma non risulta più con noi. Hanno fatto credere che ero di l'energia, però poi mi ha proposto un contratto con Mediso, che non entra nulla con l'energia, capito? Scusa, ma perché mi sta facendo fare il medico quando io c'avevo l'energia nel vento che mi avrebbe aiutato a rientrare l'energia, non il medico? Cosa me la fuggi a me di medico? Ma vada a farlo. E gli ho chiuso il telefono. Beh, ma ci va, dato di lui, se non aggiungo il punto. No, a me se volevo che me lo cifra bassa. Loro, l'ENE stesso mi metteva su platenude, mi metteva con 6 centesimi, perché l'ENE non lo può fare, hai capito? Te lo danno loro stessi, l'energia te lo dà lo stesso, sono, che sono quelli con l'energia. Lei chiude, si chiama. Sì, quelli lì, loro stessi te lo mandano, ti mandano da loro, hai capito? Poi dopo fatto un mese ti richiamano, l'energia ti richiama. Io adesso io ce l'ho avuto, ho fatto male che l'ho cambiato con l'energia. Quello lì pagava una gazzata, mi veniva di cosa, di luce. Ma il consumavo e pagavo pochissimo, proprio poca. A volte 35, a volte 50. Ce l'ho avuto anch'io, ce l'ho avuto. Infatti anche Svici è con l'energia. Me l'hanno messo loro, me l'hanno messo. Dice il signor Pina, già lo avvertiamo noi quando rientrare. E infatti mi hanno avvertito che dal primo luglio sono tornato con l'energia. Sono con 10 centesimi, perché di più non li fanno rimanere, ecco cos'è. Ah ecco, ci hanno consigliato questa amministrazione. Ma l'hanno mandato, ma da dove non me l'hanno dato? Per recuperarmi un po' di soldi, hai compreso? Perché già mi ha fatto pagare 176 euro, più 85 di chiusura, ma hai fatto pagare. È un casino, beh, ci hanno guadagnato anche da lì dalla chiusura, quando hanno chiuso il governo per un altro. Ci guadagnano sempre, ti butti di sempre, pure di dare butti da che di dare guadagnato di là per chiudere. Ma questo fatto gliel'ho detto io su. La chiusura, caspita, mi hanno fatto pagare la chiusura. Non va bene così. C'è sempre un cliente, mi avete mandato voi qua, mi avete mandato, non sono andato io. Sì, ma è per fare un po', adesso lo fanno pagare 35, 40, 50 euro al massimo la fanno pagare. Sino a giugno. Poi da luglio rientriamo noi. Sì, così un'altra volta, adesso non mi fregate più per quello. Lì sono e devo rimanere. E così faccio io, adesso non è già un mese, mille luci. Tanto ti fregano, o ti fregano la cosa, ti fregano l'altra. Quello adesso ti ha detto che ci fa guadagnare questo periodo, ma quello tanto da migliaia di euro passerà a Roendi. E quindi ritirano la cosa e li migliaia l'altra. Allora, certo, te ne inviare la mamma e te ne inviare dall'altra, lo compenso. Ma anche se la cadda le cose me l'abbia fatto, ma per sempre me l'abbia fatta rimanere con Switch. Ma manco così pagavo un poco, pagavo. Ma cos'è che sta Switch? Che pure io non l'ho mai sentito. Cosa elettrico è stesso. Se tu guardi insieme a cosa dell'ENE, comanda l'ENE, comanda in Sardegna. Beh, l'ENE è la casa madre, poi gli altri sono tutti affiliati, capito? Però sono sempre clienti ENE. Se ti fa tenere queste cose, dopo ti fa tenere pagare. Cioè dopo di essere nella categoria, dopo 70 anni dovresti pagare poco. Infatti, mani di tu. La signorina dell'ENE mi ha detto, dice, lei deve, cioè, 70 anni deve pagare più poco. Adesso da luglio noi gli proponiamo di pagare ancora più poco quando rientra. Gli facciamo le cose di pagare più poco, perché da noi ci è venuto il coso del comune, ecco cosa è. E dovremmo pagare, da 70 anni su dovremmo pagare più poco. Poi se hai un bonus energia dovresti pagare meno. Infatti dovrei pagare meno. Io che me ne siete che stavo pagando 20, 0, 28 centesimi. Ah, scherzando sta, mica non è vero, mica sta pagando 10 centesimi, 0,010 centesimi sto pagando. No, no, guardi, non mi frega, guardi, no, non cerchi di garbugliarmi che non è vero. E dicono mi ripare, perché così ci attirano a fare il contratto che vogliono loro, capito? E infatti è così. Ma vai! Mi stava dicendo questo e quell'altro, guardi, c'ho, tanto c'ho tutto quanto io qua, del coso della banca e tutto. E se dicevo sì, ha detto no, guardi, ne lasci perdere, no, non voglio nulla, guardi, gli passo il quello dell'ENE. E poi si arrangia con questo qua, guardi, non è dell'ENE. Allora io gli ho detto, guardi, ci risentiamo verso le 7. Va bene, oggi c'è radio il telefono, va. Che ha fatto bene, ma se ti chiama qualche altro, poi magari non ti trovo, e quello è il problema, capito? Anch'io a volte guardo, se c'è scritto spam lo spengo direttamente. Ma a me esce Italia, esce. Italia oppure Lombardia, coso di. Tutto di loro che mi esce. Come mi esce? Il numero, tanto lo blocco. Gli metto il blocco, gli metto. E invece tu sai che non è nessuno che ti può chiamare da lì, pigli i suri. E basta, tanto via. Quando rispondi ci sono sempre le fregature. Sì, infatti ci sono sempre le fregature in mezzo, là ci sono. Infatti quando cominciano a chiamarmi, devo dire subito no, no, no, no. Che paga. Oh, yeah. E comunque è un casino con questa gente che a me me l'ha fatto cambiare una ragazza di Cagliari che ha chiamato una consente di Cagliari, mi ha detto ma sei sardo? Tu sì, io sono di Cagliari, vedersi in rapporti. Guarda, ti conviene cambiare, io ci avevo plenitudine, cavolo, mi ha fatto morire l'energia, ma è anche pagato di più. Se fai il buttito pure a me, ma c'è un madre che dice di energia di Cagliari. Dice io sono di Cagliari, che tempo c'è lì, mi ha detto. E ha detto qua c'è il sole, è caldo anche qua, mi ha detto. La femmina torna da chiamare, dice che tempo fa lì, è pioggia, nuvole e vento. Anche qua, la gente, proprio, è massarrato. Io la consente la gente proprio una bella voce, che bella voce che c'hai, me la sto rimorchiando. Che deve fare i rimorchini? No, conviene, adesso conviene chiamare il numero verde, energia e di virus subito. Guardi che mi stanno insultando. Lo insulta, mi sono futtecchi, che diverso, capito? Infatti volevo chiamare l'energia a vedere se risultavo ancora cliente, come lei mi aveva detto che non risultavo più cliente, capito? Facendo credere che lì era di Enel Energia, ma non era così, lei era una consente di quelle che ti propongono, magari gli danno un pacchetto da proporti e loro te lo propongono e hanno un intruito dai contratti che fanno, capito? E è così infatti, la signorina dice guardi c'ho tutto del coso della banca e questo e quello, l'importante è che non mi arrivi nulla, perché se no la denuncio io e la faccio licenziare. Che mi ha detto così, dice no guardi gli esce, gli faccio il collega, se portavo che tratto, ha sentito cosa ha detto la signorina. Se mi fate a me una fregatura e coso, io vi denuncio. Dice no, no, signor Pinna, siamo seri noi. Ha detto, io ho appuntamento alle 7 perché adesso devo uscire a prendere la mia nipote dalla palestra. Ci risentiamo alle 7. Se domani a mangiare, mi intendi? Ma non ci credere, non ce n'è uno, sì io. Lavorano tutti per la bagnotta. Ma io posso dire da manina, quando vengo, boh, sarò tutto. non rispondo neanche. Quando vedo Italia non rispondo neanche. Fate mie mogliere. Ho detto, non risponde, lascialo su là e non risponde. Mia figlia mi ha detto, schiaccia il tasto così lo metti silenzioso. E invece l'edificio non funziona. Come che non funziona? Deve funzionare per forza. Ho imparato. No, schiaccio il tasto dove premi quello, dove spegni il telefono. Schiacci il tasto e ti mette silenzioso, te lo metto. A me è diverso questo. Invece c'è scritto proprio silenzioso. C'è scritto vibrazione più suoneria, silenzioso, eccetera, eccetera. Tu metti silenzioso e te lo metti silenzioso. Vibrazione. Quando squilla questi del consente, quando squilla, le schiacci il pulsante che c'è dietro a un fianco, schiacci quel pulsante lì e te lo mette silenzioso la suoneria. Ho capito, ma rimane carica la batteria sempre, invece nell'altra maniera se riesce a eliminare completamente è una cosa diversa. Non è migliorato, devo dire, che hanno telefoneggiato a Londra, dico, ma se devo eliminare queste dal call center, come ti devo fare? Avrebbero domanda a me migliore che hanno mangiato. Salute. E loro già lo sanno, anche i miei figli sono delle schegge usando il telefono, via. Ne sanno i drupi. Infatti a me migliora, lo dico, come devo fare per togliere questi del consentere, che non mi chiamano a cancellarli direttamente, senza che ne si appariano più. Lei lo sa che ha già fatto, che è da puro anche inghidare i giamani, li ha eliminati. E ha fatto bene, almeno c'è tutta una rottura di palle, perché chiamano sempre in orari impensati, o dopo il prendo per posare, magari usi magnetti, loro sanno che sei a casa, quell'ora capisci e ti rompono le scatole. Infatti il telefono la gente se lo muovo, dentro nella doccia vanno in tindillo. Mi piglio a mezzo, ma il telefono sta squillando, è dentro nella doccia, mi stanno chiamando quelli dal consentes, quindi ho messo lì. E poi prima a spegnerlo allora, a lasciare quella. Ma che da quelli se impari di fondo di tutto, arriva la doccia. È sopra la lavatrice, ho messo sopra la lavatrice per quello. Quando si vede che vibra un pochettino, poi si mette a squillare. Sarebbe più assillato, quando vibra cammina il mio, se quando vibra che sul tavolo cammina. Anche il mio fa così, anche il mio fa così, anche la mattina prima di suonare la sveglia lo sento vibrare, allora me ne sono cammini del tutto. Ehi, ehi, ehi, vabbè, purtroppo l'hanno imbinato e dovrebbero essere condannati chi gli dà i vizi e i numeri di telefono a queste persone qua. Perché quello lì è violazione della privacy, lo fanno sotto un banco e non dovrebbero farlo. Infatti ha un call center agito, scusi, come ha avuto il mio numero? Perché se so che me l'hanno passato sotto il banco vi denuncio, vi faccio chiudere tutto, vi faccio chiudere. È massarrato, è compreso. Sì, loro li ottengo, ma adesso ne venga anche uno che vi dà dei numeri. C'è sempre la storia, ma carità, quindi su di che cosa si fa? E anche il coso della banca, amici, c'avevano il coso della banca, c'avevano le coordinate bancarie anche, c'avevano tutto quanto, c'avevano. La polizia ha detto, scusi, ma come fanno ad avere le coordinate bancarie e tutto quanto di... perché se lo passano tra agenzia e agenzia dovrebbe essere a privacy, allora quella non è più privacy, ecco cosa è, non è più privacy quello, se se lo passano uno con l'altro. Ma se io faccio la denuncia a questi signori direttamente, e Murizzato mi ha detto, se gli fa la denuncia noi agiamo, andiamo, cioè gli chiudiamo il consente. Sì, farò così, basta che tu non hai qualcuno, il numero ce l'hanno tutti quanti, capito? ho fatto vedere che anche il telefono andava via da lì. L'ho fatto vedere al poliziotto. Aspetta, così in moto lo alla che. Mi stanno cominciando a rompermi le scatole, per non dire altre cose, parolacce. Non le posso dire, quindi, come vede. Adesso alla prossima io non rispondo più e mi stanno sempre chiamando e glielo sto bloccando. Mi ha detto come te eliminarlo, che se ne ammetta più. Ma che ti scrivi il mio e mi ha detto che è troppo lungo. Si figuri se me ne ammetto. Metti su Google come fare eliminare le chiamate indesiderate e te lo spiega. No, te lo vado a mandare tramite coso, in lettura dovrebbe essere. Ma se tu lo chiedi a Google, Google ti risponde a tutto. È un'intelligenza artificiale, Google ti risponde a tutto qua. È un motore di ricerca. Dovrebbe darti tutte le coordinate come si fa per eliminare le chiamate indesiderate. Domani mangiamo, vi prego, quando rientro dal coso di mia moglie, che devo andare a vedere i grandi che reagiamano per operarla alla cataratta. Devo andare. Dove vai a fare la pulizia? Alla stecca bianca. Io ne ho fatto una pulizia che uno all'ospedale civile. La secca bianca l'hanno già controllata, gli hanno dato i cosi per fare le analisi, prima e poi gli ha detto il giorno che chiamiamo noi, l'indomani deve andare a farci le analisi e tutto quanto. Sì, prima ti ricoveravano e ti facevano tutto loro. Ma sono comodi, devi fare tutti gli analisi, andare tu a fare gli analisi, portargliele, insomma un casino, ogni volta è così. Infatti è così. A mia cognata, dal vero, hanno fatto già gli analisi, la visita, gli hanno fatto che fate fare gli analisi. A me ne viene già mai tra poco. È un casino. Guarda, a me mi hanno chiamato oggi dalla diabetologia per ricordarmi che il 19 c'ho la visita. Io la visita, poi io ho già prenotato la visita a Culisica il 1 dicembre. Tanto la mia dottoressa mi deve già, ma ha detto verso 14 o 15 la chiamo io. A dicembre mi ha detto. Io l'ho già fatta a Linaman. E anch'io la devo fare a Linaman, la devo fare. Ah, ma l'ha dato per il 1 dicembre, me l'ha dato. Vabbè. Però io adesso devo andare a maggio. A maggio. Solo che si è sbagliato, ma c'è un appuntamento, ha scritto maggio 2024 invece che 2025. Mi sei sbagliato, chi sa, ma ti dici, è già passata la visita. Ah, se c'è tutti i furi, c'è un impegnativo per fare tutte le analisi, tutto l'altro. No, quello no. Però mi sei sbagliato, metti, te lo scrivo dietro il giorno che devi venire, ma l'ha scritto dietro al Puglia, mi ha scritto 2024 invece che 2025. Questo qui non è sarà dell'anno scorso, invece io sono ordinato, ho la cartella, rimetto tutti in fila, capito? Ah, mi sa che l'organizzo e Morrognelli, io vedo pigliare i battigli e c'è già il ritardo. Dai, ci sentiamo domani se tutto va bene. Ok, stammi bene, alla prossima. Ciao già. Ciao dottore, mi tolto le palle alla bocca, stavo per dirti lui, stavo per aspetti venire. Sì, dai, ci sentiamo. Buona serata, buona continuazione. Ciao dottore.